Sconvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sapevamo che Eddie tirava forte, l'avevamo provato prima con Candreva, ora lui, e quindi siamo andati sulla respinta. È stato bravo Giaccherini, e poi quando è rimasta lì ci abbiamo creduto, eravamo in 2-1, non a caso andiamo lì e sarà un caso, sarà tutto, ma ci avevamo qualcosa dentro che oggi bisognava vincere a noi. Insigne che cambia gioco dalla parte opposta splendidamente per Darmian. Darmian in area di rigore. Darmian dentro, palla deviata, Graziano! Pelle! Ghiaccio per partita! Ghiaccio per partita! 91-2-0! Penso di essere stato buon profeta ieri, quando comunque mi sono spinto, no? Un po' in là, dicendo che non avremmo fatto le vittime sacrificali, che comunque sapevamo che per fare l'impresa avremmo dovuto fare qualcosa di straordinario e non l'ordinario, lo sapevo anche che questi ragazzi hanno qualcosa dentro, ci potevo contare su questo. È finita qua, lo diciamo, chiudendo le valigie amici, si va a Bordeaux, si va a giocare il quarto di finale con la Germania. Ragazzi, notte indimenticabile, serata, notte indimenticabile per l'Italia e per il calcio italiano. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bindi in redazione. Partita indimenticabile per la situazione, l'avversario, il modo. Io ci ho fatto una pensata. Le partite che più mi hanno emozionato della nazionale italiana negli ultimi, diciamo, 26 anni. Da Stati Uniti 94, a me è rimasta impressa Italia-Nigeria, ottavi di finale 2-1 con quella doppietta di Baggio quando sembravamo già spacciati. È una questione di emotività, così come è una questione di emotività quella saga interminabile degli europei olandesi del 2000, quando riuscimmo con un grande toldo a battere e a sbattere fuori l'Olanda in semifinale dall'europeo. Ovviamente Germania 2006, la vittoria ai supplementari con i padroni di casa a Dortmund, poi una grande partita agli europei precedenti, quelli di Polonia-Ucraina, Varsavia, il 2-1 con cui l'Italia batté la Germania con un indimenticabile primo tempo, ma Italia-Spagna di ieri, Francia 2016 forse un'altra cosa. Non so chi di voi è d'accordo o chi no, ma tanto me lo posso chiedere, anche perché oggi è il classico giorno in cui voglio sentire la vostra voce. 800 24 00 24, oltre che quella di Dario Ricci, nostro inviato in Francia, che ieri sera ammirabilmente raccontato le fasi principali del match di Saint-Denis. Ciao Dario. Ciao Carlo, un saluto da Montpellier. Il ritorno a Montpellier, la notte dell'impresa, raccontami tu, fammi la cronaca. È stata una notte dolce per gli azzurri, che sono stati abbracciati letteralmente intorno a mezzanotte e mezza da circa 400-500 tifosi che li hanno aspettati davanti all'albergo. È stato bello sentire i cori, vedere l'affetto della gente e anche la disponibilità dei giocatori nel salutare i tifosi, nel contattarli, nell'incontrarli. Per esempio Alessandro Florenzi si è fermato per qualche selfie, per qualche abbraccio. Bonucci, che di solito insomma è abbastanza urticante, seppure esplicito. Orsacchiotto, sì. Infatti invece si è avvicinato, ha salutato lo stesso Conte, è stato acclamato. Insomma è stato veramente una bella atmosfera, ma poi alle 11 stamattina di nuovo in campo. Allora facciamo solo a 30 gradi. Sì, ne parliamo, abbiamo il traffico. Ne parliamo subito dopo le informazioni per chi è in viaggio, dalla cronaca della notte a quella della giornata e alle preoccupazioni per quello che secondo me è stato uno dei migliori dell'Italia, almeno fino a che è rimasto in campo. Leader assoluto del centrocampo, Daniele De Rossi, si è fatto male. Traffico. Tutti convocati. Convocati. oggi ho fatto il discorso prima della partita alla squadra, ho detto che per vincere oggi bisogna metterci tanto cuore, perché non basta tattica, non tattica, ci vuole anche cuore per vincere queste partite, e penso che oggi tutti l'abbiano messo. Ancora una volta abbiamo appunto dimostrato un grande spirito, e non solo, abbiamo dimostrato in tutti i reparti di saper soffrire quando c'era da soffrire, partire cattivi, vogliosi, sapendo cosa fare. L'abbiamo preparata anche questa benissimo, e poi alla fine, forse un po' troppo alla fine, l'abbiamo raddoppiato, ma meglio così, adesso siamo contenti, e ripeto, molto simile col Belgio, ma finita nello stesso modo, siamo contenti. Questi erano Giaccherini e Graziano Pellè, partita da 8 per entrambi, come d'altra parte è stato deciso da molti dei quotidiani di oggi. Direi che Giaccherini è stato incoronato come il migliore degli azzurri, da soldato semplice di Conte a generale di quel centrocampo con gli inserimenti. Mi è piaciuto moltissimo anche Parolo. Con quei due giocatori noi siamo in grado di andare a far male. Tra gli ascoltatori che scrivono 349-238-6666 c'è chi è preoccupato per Conte, ma se vince l'Europeo cosa farà? Nella prima partita si è spaccato la bocca, in realtà il naso, ieri è salito sul tetto della panchina, non lo so, potremmo essere preoccupati per il nostro CT. A questo proposito poi voglio rilanciare un tema, va bene, poi arriverà Gian Piero Ventura, finirà con questo Europeo il biennio di Conte. Io continuo a pensare che con un po' di spirito innovativo, di fantasia, di creatività, di desiderio di andare contro regole anche non scritte, il doppio incarico a me schifo non fa come idea, e continuo a pensare alla pallacanestro, dove il miglior allenatore italiano che alleni in America, San Antonio Spurs, Ettore Messina, guiderà dal 2 di luglio l'Italia al preolimpico di Torino e speriamo alle Olimpiadi. Vabbè, comunque, è una mia idea, poi molti non saranno d'accordo, storie di impicci, inciuci, procuratori, cattivi retropensieri, in alcuni casi molto maliziosi. Torniamo alla cronaca, prima di Massimiliano e Armando, 800240024, numero verde, vedo anche chi era ieri sera, si è interessato di più alla Morettina vista al fianco di Vieri che non agli azzurri di Conte. Vabbè, Dario Ricci. Eccoci. Allora, sì. Abbiamo raccontato la notte. Adesso raccontiamo la mattina degli azzurri, perché è subito in campo, giusto? Sì, le indicazioni sono comunque chiare, perché vabbè, Buffon ha svolto il lavoro a parte come di pragmatica nei giorni dopo la partita per il capitano. Candreva lavoro differenziato, ma per lui di fatto, dispiace dirlo, ma credo proprio che l'Europeo sia finito, perché da quello che poi è uno stiramento non si riesce certo a recuperare nei pochi giorni che ci separano dalla Germania. Il grande assente di stamattina è stato Daniele De Rossi. Nel pomeriggio accertamenti per lui per questo colpo all'anca. È chiaro che per tutte le cose che hai detto e per quello che ha fatto Daniele ieri in campo, diventerebbe un giocatore fondamentale. Se è una botta in 5 giorni si recupera, Dario. Se è una botta, di fatto a me è sembrata fosse una botta magari non all'anca, sopra il ginocchio, con il muscolo teso, quindi particolarmente dolorosa, ma se è una botta si recupera, no? Vero pure che ieri nella zona mista è andato via a volto scuro e soppicava parecchio, però è chiaro che lì poi tra le terapie e poi il lavoro psicologico che fa Conte, ecco, quello che è importante da dire è che comunque i ragazzi, anche per quello che si è visto ieri nel finale, faccio riferimento, tu dicevi Giaccherini, ma soprattutto per lei, soprattutto anche De Sciglio, son tirati al lucido fisicamente. Sì, Dario, da promuovere in blocco, infatti uno degli aspetti che caratterizzano questa squadra è che sia molto ben preparata fisicamente, è una squadra che corre molto bene, molto fresca, sì. Quindi anche Conte ha fatto un gran lavoro nella fase di preparazione di questo Europeo, ma credo anche che abbia fatto un gran lavoro nei 10 giorni che hanno preceduto questa partita, con in mezzo a quella partita strana con l'Irlanda, con le seconde linee in campo. Questo mi è sembrato evidente ieri, dopo i primi 60 minuti onestamente spettacolari. Sì, è proprio così, e devo dire che poi, come in qualche modo si era ipotizzato anche dopo quella quella sconfitta. La partita con l'Irlanda l'abbiamo visto ad esempio nel caso di Insigne, nello spezzone che ha giocato, ma anche nel caso dello stesso De Sciglio. Ecco, è servita per mettere in temperatura agonistica anche le cosiddette secondo linee, che poi all'esigenza diventano prime, perché in tornei come questi veramente si gioca con 23 titolari. Quindi da quel punto di vista tutti hanno avuto modo mentalmente di assaggiare l'europeo, di sentire i tacchetti degli avversari. Ieri, ahimè, abbiamo visto Piquet e Sergio Ramos, ce l'hanno fatto sentire un po' troppe volte con il beneplacito dell'arbitro, ma insomma mentalmente tutti erano in campo e ieri si è visto. Dario, grazie. Sentiamo ovviamente in continuazione con Dario Ricci, il nostro inviato agli europei. Poi parleremo anche della Brexit 2, incredibile, dell'Inghilterra che esce contro la Cenerentola, Islanda. Giorgio Luca prima mi faceva notare. E adesso Vardy, attaccante dell'Leicester, che ha vinto il campionato inglese da totale underdog, potrà capire cosa vuol dire perdere da una squadra impronosticata ed impronosticabile. Onestamente questa Inghilterra è stata orrenda dal primo all'ultimo istante di questo europeo e Roy Hodgson, che ricordo l'allenatore, il CT più pagato dell'europeo in omaggio al movimento più ricco che c'è, che esprime questa roba qua, cioè questa roba qua intesa come questa nazionale inglese, e insomma qualche idea ce l'ho sulle responsabilità. È una squadra che ha comunque talento, che ha grandi margini di crescita, ma è una squadra che ha regalato una partita impossibile in senso negativo ovviamente. Massimiliano, buonasera. Sì, buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno. Beh, sono rimasto a ieri sera quando abbiamo raccontato la partita, staccando alle 9, sono rimasto al buonasera di ieri. Dica. No, sono rimasto anch'io ieri sera. Credo che ieri grande partita, grande intensità, a me ha ricordato molto Germania-Italia ai mondiali, con Grosso e Del Piero come gol finale. Sì, solo che là era successo tutto nei supplementari, dopo una gara molto tattica, splendidamente giocata dal punto di vista difensivo, però tutto nei supplementari. Bella vederla giocare, veramente un'Italia bella da vedere. Alcune considerazioni che ho fatto: uno, quanti gol abbiamo sbagliato, quindi probabilmente qualche considerazione sull'attacco e sulla qualità dell'attacco. È vero che abbiamo fatto 2 gol, però ne abbiamo sbagliati almeno 4. Ma non sono così convinto. Non sono così convinto, ma perché insomma De Gea ha fatto almeno due parate straordinarie. Secondo me si poteva far meglio su quella conclusione di Pellè, che De Gea pure ha respinto, però non mi sembra che l'Italia abbia sbagliato poi così tanto sotto porta. Ricordo quel palo di Giaccherini a gioco fermo perché è stato fischiato gioco pericoloso al nostro giocatore, però bisogna metterci anche il fatto che De Gea è stato il migliore di una Spagna in enorme difficoltà. Armando, buongiorno. Buongiorno. Dica. Gli spagnoli una volta li chiamavano le Furie Rosse. Lei ha visto Furie Rosse ieri? No, è la maglietta bianca, quella che porta sfiga. Sì, appunto, si hanno bevuto 2 litri di camomilla quelli spagnoli lì. Il primo tempo non sono esistiti assolutamente. Abbiamo rubacchiato un gol lì di respinta. E poi abbiamo fatto un gol all'ultimo, negli ultimi 2-3 minuti, quando sì, ormai il Toro era quasi matato, perché pochi secondi prima Buffon aveva fatto un miracolo, definito San Buffon da Chiellini, ha fatto un miracolo su quella conclusione ravvicinata di Piquet. Però onestamente l'Italia meritava il 2-0 ben prima. Adesso, se hanno bevuto la camomilla, ce lo racconta Filippo Maria Ricci, che si trova nel luogo in cui l'Italia intera lo voleva, e cioè sul volo di ritorno. Lui che segue la Spagna, vive in Spagna per la Gazzetta dello Sport e anche per noi, e adesso torna a casa. Cosa mi vuoi far sentire, Giorgio De Luca? Dopo il traffico. Sono a casa io. Sei a casa? Sì, ma io seguo la Spagna, quindi partì sono a casa. Allora, senti che fiducia che ha, oh, pardon. Mamma mia, che bello. Io dico che avremo il sereno anche lunedì. Io sono ottimista assolutamente, perché ieri eravamo in zona mista e i giocatori della Spagna continuavano a ripetere: no, ma non siamo eliminati. E io dicevo: sì, ma chi vi ha detto che siete eliminati? Cioè, perché questa è una specie di excusatio non petita, no? Veramente eliminati? Nessuno l'ha detto, eravate già qualificati, se per questo. Questo è quello che ci aveva raccontato Filippo Maria Ricci dopo l'accoppiamento tra Italia e Spagna. È stato ottimo profeta e adesso sta volando via. Ciao Phil. Buon Buon pomeriggio. Ciao. In realtà sono ancora in macchina andando verso l'aeroporto di Bordeaux. Sì. E poi da lì prenderemo un volo. La Spagna sta volando a quest'ora. Ecco, vedi? La Spagna è in volo. La Spagna è in volo. È in volo verso dalla dove? Dalla Rochelle a Madrid. Dove l'attenderanno non pomodori in, no, di vario colore in latina. Stanno perdere bene, sanno perdere, sanno vincere, sanno perdere. Questo gli va riconosciuto. Io non ho mai visto tanta gente. Mi è venuta a fare i complimenti ieri per come abbiamo giocato, per come abbiamo vinto. Perché, sai, potevamo vincere in tanti modi. Potevamo passare quello che magari io, quando io dicevo torno a casa, però mi aspettavo uno 0-0, un gol rubacchiato. No, noi ieri abbiamo giocato benissimo. Insomma, sì. I primi a dirlo sono gli spagnoli, che fanno sempre fatica ad ammettere che gli italiani giocano bene a calcio. Noi sappiamo vincere, sappiamo competere, ma loro ieri hanno riconosciuto diciamo una grandissima partita da parte dell'Italia, e questo secondo me è la cosa migliore, al di là della qualificazione. Adesso poi giocheremo con la Germania, però il riconoscimento da parte della Spagna, diciamo, di un pubblico e di giocatori, no, che amano trattare bene la palla, riconoscere che noi ieri sera abbiamo fatto un partitone. Questo per me è la cosa più importante. Sicuro, Filippo, ma oggi sui giornali spagnoli, ma già ieri sera guardavamo i siti, i giornali spagnoli, la parola più ricorrente, le parole più ricorrenti sono fine ciclo. Vista la Spagna di ieri sera, comunque molto stanca, forse Del Bosque ha sbagliato nel proporre sempre la stessa formazione. Era una squadra veramente stanca, ma era una squadra che sembrava anche senza più fame. È questo che mi ha impressionato. È quello che ha detto Piqué. Guarda, c'è stato un Piqué eccezionale in zona mista. Lui ha detto: una volta che siamo finiti nella parte sbagliata del tabellone, dice, ci si è presentata di fronte una montagna enorme. Così ha detto, cioè, come dire, praticamente sapevamo che potevamo magari saltare uno, io no, questo ne avevamo parlato, potevamo saltare un ostacolo, ma non tre. E questo è stato, sono caduti al primo. Ovvio, attenzione, la Spagna è stata in corsa fino, no, quasi al 90esimo. Perché no, se non era per San Buffon, magari c'erano i supplementari, o chissà, poteva andare diversamente questa partita. Quindi no, sono stati vicini al... Però sicuramente è una Spagna stanca. Ma era stanco per me il CT Del Bosque, era stanco. Doveva fare un cambio nella formazione, non è stato lucido nella gestione, no, del gruppo. Però è la fine di un'era, ma in realtà, se poi ci pensi bene, dei 23 che sono qui, l'unico che, diciamo, che verrà pensionato sarà Casillas, gli altri sono ancora, diciamo, possono ancora dare qualcosa. Insomma, sai, tante volte non è una questione anagrafica, ma di successi che ha ottenuto, di chilometraggio percorso, no? Esatto, sì, questa è una squadra che ha vinto tutto, giocatori che avevano in totale 250 trofei, 23, cioè, voglio dire, una cosa mostruosa. Per cui è chiaro che ci può essere un po', no, anche di stanchezza mentale. Ieri le parole di Piqué sono per me molto, molto indicative. Ha messo addirittura in discussione lo stile, Dice magari bisogna pensare se con questo stile di gioco non siamo più efficaci. Ci hanno preso le misure e facciamo fatica. Quindi mettere in discussione lo stile, insomma, per uno come Piqué, che viene dalla scuola bassa e tutto quanto, insomma, sono parole grosse. Però vediamo. Da vedere anche chi sarà il successore di Del Bosque, o se riescono a vincerlo, a restare, per me. Ma io non credo, che. No. Perché se arrivi a fine ciclo qualcosa devi cambiare, non puoi dire per affetto vado avanti con questi. Mi sembra che Del Bosque sia stato già giubilato, ma lo raccontavi tu, soprattutto dalla stampa di Madrid, dall'opinione pubblica di Madrid, no? Esatto, no, ci sono problemi. Lui ha sofferto molto questa cosa. Essendo una brava persona, insomma, non se lo meritava, no? Questi piccoli attacchi, queste piccole scaramucce, no, non se l'aspettava. Dice lui, l'altro giorno ha fatto un'intervista a Radio Marca, secondo me molto bella, dice: va bene, se la possono anche prendere con me, ma non con la nazionale, non possono mettersi qua a cercare di destabilizzare la nazionale, che è il simbolo di tutti, vi ha dato tanta gioia, abbiamo fatto delle cose meravigliose. E lì c'ha ragione, insomma, in questo non gli si può assolutamente dar torto. No, lui è il primo, è lui che vuole andare via, però è chiaro che il panorama non è proprio brillante dei sostituti, per cui vediamo se capisco anche il presidente, che voglia magari pensare di confermarlo. Io l'ho visto stanco, insomma. Ma sai, anche lì vale il discorso che ho fatto prima per Conte. Cioè, io continuo a pensare che per un commissario tecnico il doppio incarico club più nazionale possa essere sempre una soluzione, perché ti permetterebbe di comunque di prendere anche a costi accessibili grandi allenatori, allenatori di vertice, di punta, protagonisti assoluti che ovviamente non vogliono scendere dal carro che conta, quello del club, quello della Champions League, eccetera. Continuo a pensare che potrebbe essere una soluzione anche per così, per radunare intorno alle nazionali i migliori allenatori del mondo. Filippo, dimmi. No, sono assolutamente d'accordo, Carlo. Questo sarebbe un passo avanti per il calcio. Sì, ma con un po' di creatività. Non ti può più permettere, sì, un allenatore che faccia solo la nazionale, non te lo puoi più permettere. No, ma soprattutto un grande allenatore, perché poi esatto. Vedi come Conte non finisce il ciclo quadriennale perché ti chiama al Chelsea, che fai? Hai voglia di allenare, hai voglia di campo, sei giovane, sei sulla cresta dell'onda. Cioè, non puoi vivere aspettando il torneo che arriva ogni due anni. E quindi fatalmente è così. Filippo, grazie, buon viaggio. Ci sentiamo dalla Spagna. Voi, ciao. Ciao Filippo Maria Ricci, ci fermiamo per la borsa. Vito da Bari già in linea, 800240024, il numero verde. Intanto oggi l'Inter è passata ai cinesi. Ufficialmente Moratti è stato confermato come consigliere dell'Inter. Massuning è nuova proprietaria del club nerazzurro con il 68,55% delle azioni. Al Milan invece sta arrivando Montella, ma questi sono altri discorsi. A dopo. E metto un hashtag, diteci ancora che siamo scarsi. Il primo che dice che siamo ancora scarsi, veramente lo picchio. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the playmakers. Si ricomincia. Tutti convocati. Così la nazionale italiana è stata accolta a Montpellier nel cuore della notte dopo la vittoria sulla Spagna. 800240024, numero verde. Vito, buongiorno. Buongiorno a voi, congratularvi per il programma che ascolto purtroppo solo per mezz'ora, il tempo che mi serve per andare da casa al lavoro, ma faccio un tragitto più lungo, allunghi la strada. Volevo dire che io ho una figlia che vive a Valencia da 10 anni, sì, è sposata con un ragazzo di Madrid. Potete immaginare in questi anni quanto ho dovuto ingoiare, naturalmente affetto e con ironia. Da però, 94 a oggi nelle grandi competizioni. Sì, adesso sono stato finalmente ripagato. E grazie, devo dire soprattutto, come anche voi spesso ribadite, da Conte, che qui a Bari abbiamo avuto occasione di capire che tipo di allenatore sia. Sì, certo. Tornando alle emozioni di cui avete parlato, questa secondo me è una veramente delle più importanti, perché ottenuta con un gioco che abbiamo imposto noi, perché spesso abbiamo sofferto facendo molte volte solo barricate e contropiede. Questa volta abbiamo imposto il nostro gioco e questo mi sembra l'evento più importante. No, ma io ritengo che sia stata, adesso sull'onda dell'emozione, forse è più facile dirlo, ma la miglior partita della nazionale italiana negli ultimi 20-25 anni. Poi possiamo metterci il 2-1 sulla Germania 4 anni fa, sempre agli europei, e quell'indimenticabile semifinale dei mondiali che fu qualcosa di unico e irripetibile a Dortmund contro i padroni di casa della Germania. Poi insomma non è che ce ne siano tante altre di partite indimenticabili della nostra nazionale nelle grandi competizioni. Andrea, almeno sì, ovviamente lasciamo stare 82, lasciamo stare 90, eccetera. Andrea, dica. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie. Secondo me il segreto che ha Conte rispetto a tutti gli altri allenatori è che Conte sta allenando questa nazionale come se fosse un allenatore di club. Cioè noi non abbiamo Pelé ed Ernon, non abbiamo delle stelle in attacco, ma lui riesce a carpire il momento giusto e secondo me li sta allenando e motivando come farebbe un allenatore in una squadra di club. Sì. Questo è quello che penso io. Anche Lippi e Prandelli erano comunque allenatori di club, sono ormai molti anni che puntiamo su allenatori che hanno lavorato per tutta la loro carriera nei club. Però è vero quello che lei dice. Io non ricordo, ad esempio, una nazionale in cui, sempre rimanendo negli ultimi 25 anni, andando indietro, anche di più se volete, non ricordo una sola nazionale in cui non ci fosse qualche tormentone. Staffette, e metti questo e metti quello, e metti a Cassano e metti a Totti, e metti a Paolo Rossi o non metti a Paolo Rossi. Questa è l'unica nazionale che... Ma anche, questo è un limite, l'unica nazionale che non ha grandi ballottaggi, insomma. Voglio far sentire al nostro prossimo ospite, abituale di casa, una cosina su Conte. Giorgio! Giorgio! Gazzello! In barriera! Giorgio! Giorgio! Fermo, Ale! Ale! Ale, via! Via da là! E questo è il primo gol dell'Italia, ripreso dalla Conte Cam, ok? Dalla Conte Cam, telecomanda i giocatori. Giorgio, lì, Ale, in barriera, Maurizio Crosetti, ciao. Eccoci, no, è da stamattina che lo ascolto, sono, devo dire, un po' agitato, cioè, mi ha messo inquietudine quest'uomo, che peraltro adesso ho deciso di ascoltare prima di scrivere ogni volta un pezzo. Voglio motivarmi così, no? Perché adesso c'è questo luogo comune del motivatore, lui è un grande allenatore. Non ho mai conosciuto un commissario tecnico che non motivasse o che pensasse che la nazionale andava allenata solo come una nazionale, cioè selezionandola e non motivandola come un club. Questa è l'ultima delle fesserie, però siccome è di moda va detto, lo dice anche Conte, lui è bravissimo così sempre, non c'entra nel club, la nazionale, lo spirito di squadra, c'entra che bisogna avere le idee chiare su ogni partita e soprattutto sul materiale di cui si dispone. Si parte sempre dai giocatori, si parte dallo schema o dal dogma, è votato al fallimento, è un, come dire, è un idealista astratto. Conte non è mai stato così, è il discendente diretto di Giovanni Trapattoni, solo per sbaglio considerato un difensivista. La Juve di Trapattoni attaccava con tutti, coi terzini, col magazziniere, e quindi io vedo in molte delle scelte di Conte, degli atteggiamenti Trap 2.0, il trap quello giusto, non l'ultimo che era un po' brasato, il trap diciamo di Dov Gentile Cabrini, ecco, quella roba lì. Beh, direi, Maurizio, comunque, che ieri sera è stata forse la consacrazione internazionale di Conte, no? È stato sarà uno dei pilastri comunque della sua carriera, la vittoria di ieri sera, speriamo che abbia un seguito. È stata, e sono andato a memoria, e solo sull'onda dei ricordi emotivi, forse la più bella partita della nazione italiana degli ultimi 25 anni, insieme alle due con la Germania, quella degli europei e ovviamente quella dei mondiali. Poi mi sono venuti in mente Italia-Nigeria agli ottavi con la doppietta di Baggio, ma solo perché fu emotivamente molto difficile, quella spremuta di sofferenza che fu la semifinale contro l'Olanda del 2000, ma poi nelle grandi competizioni non è che ne ricordo molte altre. Sì, beh, è un bel gioco, effettivamente, sono tutti momenti fondativi di ricordi. Alla fine, le grandi partite della nazionale si hanno scritto anche commedie, film, mica peraltro, tra l'altro, Italia-Germania è in assoluto, no, il momento più aggregante di intere generazioni, almeno due volte, no? Quella del 70 e quella dell'82. Sì, devo dire, forse quella del 2006 valeva di più perché era una semifinale mondiale a casa dei tedeschi, certo. E c'era in campo anche la Germania, ieri sera non c'era in campo la Spagna, ma questo non limita di nulla la nostra bravura, cioè la Spagna ieri sera non c'era, non perché c'era. L'Italia non l'ha fatta esistere, esatto. Non l'ha fatta essere, forse l'abbiamo fatta sparire noi, però fino a un certo punto, come non c'era proprio tanto, non c'era nemmeno con la Croazia tanto, cioè questa è una squadra che ricorda alcune grandi Italie del passato che non hanno, che nessuno ha avuto la forza di cambiare in maniera radicale, cioè alla fine quando tu dici grazie ma non arrivederci, no? Dici grazie ai tuoi senatori e li lasci lì anche quando non sono più loro, anche quando paradossalmente proprio quelli che hanno inventato la cantera non sono riusciti a dare a questa cantera un ricambio vero in nazionale, no? E questo secondo me ci ha favorito molto, però ripeto, sembra che poi se dici questo riduci i limiti dell'Italia che ha giocato la partita perfetta. Che la Spagna non ci fosse era un problema loro, non un problema nostro, però di fatto non c'era. Chiaro. Maurizio, un attimo di pazienza, abbiamo il traffico, poi chiudiamo la nostra chiacchierata. Tutti convocati. Maurizio Corsetti da Repubblica, due considerazioni. La prima, sarà difficile dire addio a Conte dopo questo europeo, comunque vada, io credo. Sarà un peccato dire addio a Conte, con tutto il rispetto per Ventura, qui torno. Mi dicono che sono noioso, è vero che sono noioso, torno all'idea del doppio incarico che a me continua a piacere, forse borderline, forse troppo rivoluzionaria per un ambiente conservatore, però io così la penso. E seconda considerazione, trovo che sia un'Italia che ci somiglia molto, che somiglia molto agli italiani. Spirito di sacrificio. No, ma sai, spirito di sacrificio, no, capacità di inventare. Secondo me siamo peggio, molto peggio. Non buttiamoci giù, guardiamo all'Inghilterra. E non buttiamoci troppo giù, però è comunque una squadra in cui gli italiani si identificano, no? Capacità di creatività anche nella pochezza del talento, voglia di soffrire, eccetera. Ti identifichi perché capisci con questa squadra che se anche non sei Maradona puoi vincere le partite, che se anche non sei un figo dalla nascita e uno si può fare il mazzo, cioè voglio dire, Messi e Maradona si nasce e Bonucci si diventa, per esempio. E quindi sì, secondo me piace della nazionale la normalità feroce, no? La normalità che può diventare esaltazione, e questa è l'altra bravura di Conte, al di là delle motivazioni, no? Riuscire davvero a fare il massimo, non dico col minimo, ma insomma col materiale che gli ha dato questa generazione di giocatori, queste generazioni, insomma, che non sono proprio formidabili. Sarà difficile sicuramente dirgli addio, ma lo sanno molto bene i tifosi della Juve quanto è stato difficile, dopodiché è arrivato Allegri e ha vinto pure di più, ma comunque non meno. Sarà difficile perché è sempre difficile dire addio a chi ti ha acceso di nuovo la passione, no? Chi ti ha fatto sangue. Sì. E quindi difficile. Arriva un signore che sa molto di calcio, che avrà tutti i cavoli suoi, poverino, l'amico Giampiero Ventura, perché avrà un girone molto difficile di qualificazioni mondiali, e comunque c'è poco da fare, come quando arriva Allegri e andò via Conte. Ti ha mollato uno che ti ha amato tanto, no? E che ha amato tanto, sì. Quindi è sempre un casino, però vabbè. La vita continua. Pierluigi Pardo, sei d'accordo? Sono d'accordo, e fammi pensare, non voglio fare il rompipalle che ricorda e fa il puntuto, però insomma, quante chiacchiere abbiamo sentito, quante polemiche abbiamo sentito su Conte che non sarebbe stato motivato, il pensiero del Chelsea. Io credo che insomma, la partita di ieri sia il discrimine, no? Cioè cambia completamente la storia del nostro europeo. Ci auguriamo ovviamente adesso di non fermarci più, ma dopo ieri sera già l'europeo secondo me non sarà andato male. Comunque andrà a finire contro la Germania, e la scelta di Conte è stata una scelta molto positiva, e quindi bisogna riconoscere i meriti a Conte, bisogna riconoscere i meriti della federazione. Abbiamo mille volte criticato certe gaffe penose, però bisogna dare atto a questa federazione di aver scelto l'allenatore giusto. L'ha scelto perché c'era un'opportunità in quel momento lì, perché Conte aveva appena lasciato la Juve, altrimenti un allenatore come Conte non sarebbe stato disponibile per una nazionale. Contro come Mourinho, come Ancelotti, come Guardiola, questi sono allenatori che allenano i club. Godiamocelo finché sarà, sperando che non sia l'ultima partita quella con la Germania, ma sia esattamente la terz'ultima. E per il resto sono d'accordo con Cross sul fatto che l'Italia non è alla stessa, diciamo, questa è la migliore Italia, quella che abbiamo visto ieri è la parte più splendente dell'Italia, quella che combatte insieme, che lotta insieme, che non si divide, che ci crede ancora, che ha ancora una visione, ancora dell'ottimismo, che non è facile perché i problemi sono tanti, quindi io non me la prendo con chi in questo momento è arrabbiato. Certo. Chi è arrabbiato ha pienamente il diritto di esserlo, però alla fine con la rabbia solo non vai da nessuna parte, e invece la squadra di ieri ci dimostra, la prestazione di ieri ci dimostra che questo è un paese che quando poi mette in campo di squadra il meglio che ha, insomma, può far bene, può fare molto bene. Certo. Maurizio, prima di salutarti, la Germania a me fa molto più paura di quanto me ne facesse la Spagna, per la legge dei grandi numeri, ma non solo. Beh, per la legge dei grandi giocatori più che altro, sì. che poi sono quelli che fanno i grandi numeri, no? La Germania, non solo perché è campione del mondo, è una squadra molto forte, della Spagna da tutti i punti di vista, e soprattutto non è in un momento di difficoltà. La Spagna è stanca, è stremata, è un po' logora. la Germania no, lo si è visto in questo europeo. L'unica cosa è che non fa tantissimi gol, o almeno non ne faceva l'ultima partita, li ha pure fatti, era presa facile peraltro, però non ne ha ancora presi, e non ne ha ancora presi, tutto il resto è Neuer, come si dice, tutto il resto è Neuer, esatto. Grazie Maurizio. A presto, abbracci ciao, Maurizio Crosetti. Pierluigi, arrivi giusto con gli ascoltatori. Beh, abbiamo sei minuti per rispondere a François, da ancora poi Pasquale Pietro. François, buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Allora, non sono conservatore, sinteticamente provo a spiegare che sono contrario al doppio incarico per alcuni motivi. Il primo è che credo che una nazionale così importante come la nostra si merita un allenatore a tempo pieno che possa seguire i nostri giocatori e dare le linee ai giovani e alla nazionale juniores e a tutti i giovani che giocano a calcio in Italia. Il secondo aspetto, che credo che la federazione debba avere la forza di rendere un nazionale così importante più appetibile per un grandissimo allenatore di club come è Conte. Il terzo aspetto, che né Conte né Messina in realtà hanno preparato queste competizioni col doppio incarico, quindi in realtà non sappiamo come sarebbe andata veramente se avessero allenato il club durante la stagione precedente. Ed infine, focando, insomma, non vorrei, per avere una moglie migliore, doverla dividere con qualcun altro. Ognuno ha le sue idee, cioè secondo me oggi si può, proprio per rendere la nazionale più appetibile, si potrebbe praticare questo tipo di strada, magari con un padre nobile che allena fuori, anche penso a Carlo Ancelotti. Esatto. Ma comunque, insomma, Ventura secondo me è una buona scelta. Adesso non è che, siccome Conte è abbagliante, dobbiamo pensare che Ventura sia scarso. Ventura è un'ottima scelta, secondo me, per fare un percorso che non sarà facile. Si è preso anche un bel rischio Ventura, perché abbiamo visto, ma proprio per quello, Pier, proprio per quello sarà difficile dire addio a Conte a metà del cammino, no? Perché il cammino è quello che porta da mondiale a mondiale. Lo so, però dobbiamo capire che Conte è stata, ripeto, un'opportunità, cioè l'anomalia è che una nazionale possa prendere un allenatore con Conte. È come, sì, veramente se il Portogallo si fosse trovato Mourinho appena licenziato dal Chelsea e gli avesse proposto: ti fai un anno e mezzo con noi. Questo è quello che è successo. Se considerate i tempi, la coincidenza dei tempi, Conte aveva appena lasciato la Juve, Tavecchio era un po' in difficoltà dopo le gaffe, era appena stato eletto, doveva prendere un allenatore, c'era questa opportunità, lo sponsor tecnico sappiamo che ha pagato buona parte dell'ingaggio, quindi anche dal punto di vista economico è stata un'operazione, sì, sì, buona. Io mi permetto di dire chapeau. Sì. Chapeau a tutti i protagonisti di questa vicenda qui, e lo dico anche per coerenza, perché in quell'estate lì ne parlavamo tutti i giorni e io ero favorevolissimo alla scelta, ma di chiaro, Conte. Ma era un plebiscito, dai, Piero, però voglio dirti, però va bene, è chiaro, no? È come quando c'hai una fidanzata molto bella, è ovvio che possa avere degli altri spasimanti, ed è chiaro che contro i grandissimi club nessuna nazionale in questo momento può resistere. Piero, buongiorno. Sì, buongiorno e grazie per avermi richiamato. Ed è un peccato, aggiungo, completo il discorso di Pardo, è vero che nessun country club, nessuna nazionale può resistere, ma torno a ripetere, è un peccato, perché sarebbe bello, comunque interessante, vedere le nazionali allenate dai più grandi allenatori che ci sono in giro. Dica, Piero. Sì, buongiorno a tutti. Allora, chiamavo per fare veri complimenti, i migliori complimenti a Conte, anche perché ho il piacere di vederlo nella stessa spiaggia, stesso mare, sì, a Lido, Tabù nel Salento. Ma non chiamavo per questo, chiamavo perché si dice sempre che questa nazionale non sia una nazionale di talenti, confrontandola ad altre. Però io non ricordo mai che una nazionale di talenti poi alla fine sia stata una squadra come lo è questa. Mi spiego meglio. Questo allenatore sta riuscendo a trasferire la sua grinta, cattiveria agonistica, carattere e forza alla squadra, sì, perché sì, ci sono anche giocatori che hanno voglia di diventare i numeri uno, cioè comunque buoni giocatori che hanno molta fame e sono disposti a seguirlo in mezzo al fuoco. Questo è evidente, è un segreto di Pulcinella. È anche una squadra molto ben preparata fisicamente. Poi c'è modo e modo di avere fuori classe. Oggi è diventato quasi un luogo comune, Pierluigi, dire che il fuori classe ce l'abbiamo in panchina. Abbiamo anche una difesa fuori classe. Abbiamo una difesa di fuori classe. Io sono d'accordo col fatto che non è vero che non abbiamo talento. Abbiamo, secondo me, poco talento in mezzo al campo, anche per una serie di sfighe, perché comunque Verratti e Marchisio sono giocatori che sarebbero stati molto utili e purtroppo sono infortunati. Abbiamo pochissimo. Ma secondo te avremmo visto una squadra diversa con Verratti e Marchisio? Ma secondo me Verratti, se fosse stato disponibile, avrebbe giocato nel ruolo di centrocampista, e oggi in vista di Italia Ciano avremmo proprio meno, visto che invece abbiamo questo dubbio De Rossi e questa squalifica di Thiago Motta. Verratti secondo me era titolare inamovibile in questa squadra, e Marchisio pure. Detto questo, poi manca sempre la controprova. Le difficoltà hanno forgiato questa squadra, così come quando parli con Lippi ti racconta che nel 2006 quel clima di assedio, le polemiche, Calciopoli è stato un alleato per quella squadra, perché ha contribuito a ricompattarla. Probabilmente gli infortuni o lo scetticismo che c'è attorno a questa squadra è stato tutto materiale positivo per Conte. Sicuro, è stata benzina per il suo progetto. Devo Ferroni per il GR, rimani? Sì, rimango. Sentiamo, certo. Allora dopo il GR arriva anche Marino Bartoletti. Forza Azzurri e grazie a tutti. Tutti convocati. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un'autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Assicom. Vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. State ascoltando un programma offerto da Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the playmakers. Che dire? Arrieccici. Tutti convocati. Stessa posizione. Sempre dalla Conte Cam questo, anche questo audio, Antonio Conte con il telecomando in mano. Antonio, buongiorno, c'è Pierluigi Pardo naturalmente, dica. Guardi, io penso semplicemente che Conte abbia dimostrato di essere un allenatore con le palle e aver fatto delle scelte molto coraggiose, perché probabilmente al suo posto un altro avrebbe preso qualche buon giocatore con un po' di talento, li avrebbe messi in campo, avrebbe perso, sarebbe uscito per poi dire, come hanno detto tanti, vabbè, questo è quello che abbiamo. Lui invece ha fondamentalmente, secondo me, preso una squadra molto allenabile, soprattutto perché avete appena fatto sentire le urla. Io non penso che attaccanti italiani senza fame avrebbero accettato tutte le urla che si è beccato Pelé in mezzo al campo, che si sono beccati tanti giocatori, ed è secondo me stato questo la sua grande scommessa, ed è quella che poi fondamentalmente è la forza di questa squadra, cioè sì, avere fame ed essere allenabile, al di là della difesa, che sono uomini suoi e sono forti, sì, più forti di tutti gli altri. Sì, sì, questo è in parte vero, ma Antonio, in parte vero, però non è che ci fossero tutte queste alternative, al di là del fatto di sopportare le urla di Conte o di dedicarsi anime e core alla causa, insomma, gli uomini erano questi. Poi è in parte vero, o anzi totalmente vero, no, Pierluigi, che questa sia una squadra molto allenabile, no, disposta, ragione, dicevo prima, a saltare nel fuoco per Conte. Sì, ha ragione, nel senso che comunque sicuramente l'abbiamo detto, diciamo, Jorginho e Bonaventura soprattutto, Jorginho che adesso paradossalmente ci manca, non ci potrebbe mancare, non devo dire con le sue caratteristiche, perché chiaramente con Thiago squalificato e De Rossi in dubbio sarebbe perfetto per quel tipo di ruolo. Però insomma sicuramente qualcosa lui a casa l'ha lasciato, però insomma sul fatto che abbia avuto personalità nel dare comunque una sua impronta alla nazionale non ci sono dubbi, anche in qualche modo insomma lo scarso impiego che c'è stato di Insigne fino a questo momento è un po' in controtendenza con quelle che sono le opinioni, appunto, dell'opinione pubblica e anche con le risultanze del campionato. Sì. Lui la responsabilità di scegliere come vuole se la prende, su questo non ci sono dubbi, e la forza è nella cura maniacale, il dettaglio, insomma io credo che questo sia un tratto pagina. distintivo di Antonio Conte. C'è il professor Marino Bartoletti. sono lusingato di essere ai vostri microfoni, anche se mi chiedo che cosa si possa dire di originale alle 15:10 del giorno dopo, del 28 giugno. Vabbè, partiamo dal facile, no? Dallo scontato. Si va in paradiso, anzi, non è ancora un paradiso vero, però, viste le premesse della vigilia, il quarto di finale con la Germania gli assomiglia. Conte. Partiamo dal presupposto che per fare le imprese il primo a crederci deve essere l'allenatore, perché i ragazzi capiscono se quello che fai durante l'allenamento, quello che dici, come parli, come ti comporti, ti pesano subito. Quindi per fare l'impresa devo essere io il primo a crederci in questo. Marino, ti chiedo un voto l'ho detto prima, nella storia degli ultimi 25 anni, un voto e un ranking, una posizione della partita di ieri sera. Siamo in alto, siamo veramente in alto. Guarda, io al di là delle partite storiche, quindi le varie Italia-Germania che tutti ricordiamo, 4-3, 3-1, 2-0 e quant'altro, io credo che questa partita sia assimilabile a grandissime imprese tipo Italia-Argentina, ne abbiamo parlato l'altra settimana, dello stadio monumentale del Mondiale del 78. Qui siamo oltre l'immaginabile. Oltre l'immaginabile c'è un paragone importante, secondo me. Questa è la terza volta, credo, nella storia del calcio italiano, quindi parliamo di più di un secolo, e questo va sicuramente ascritto al merito di Conte, in cui in campo non va una nazionale ma va una squadra. È successo, dicono i testi sacri, nel 1934, quando Pozzo gli faceva cantare la leggenda del gli spogliatoi. È sicuramente successo, e ne sono testimone, nel 1982, e sta succedendo, non posso dire inaspettatamente, perché era l'arma più importante, la freccia più importante che Conte aveva nella sua faretra in questo straordinario 2016, in cui comunque la parola d'ordine continua a essere piedi per terra, ragazzi. Perché certo, altrimenti certo, devo anche dire senso della misura chi era costui. Sì, questo è sicuro. Mi date un voto ragionato a testa sui giocatori di ieri? Migliore in campo, voto e perché? Marino? Beh, secondo me Buffon, guarda, so che potrebbe avercene a male Giaccherini, so che potrebbe avercene a male Pellè. Dico Pellè perché secondo me ha avuto voti troppo bassi rispetto a quello che ha fatto, perché quando a un certo punto difendeva nella sua area e contemporaneamente per un caso di disambiguazione in qualche modo poi riappariva dalla parte opposta, insomma, diciamo che un centravanti così non l'abbiamo mai avuto. Però dico Buffon perché ha fatto la cosa giustissima, al momento giustissimo. Sì, Pierluigi? Ma è uno non basta, mi oppongo alla tua domanda, la devi dare almeno 5 stelle. Scegliere una vita, dai, allora su Pellè secondo me ha avuto un grandissimo merito. Il calo, quei 10-15 minuti di calo, secondo me sono coincisi col calo fisico legittimo di Pellè a metà ripresa, e non ha avuto, probabilmente non ha un cambio con le stesse caratteristiche Conte, per cui ha preferito tenerlo in campo, e poi è stato ripagato al gol del 2-0. Giaccherini, mi verrebbe a dire che c'è un po' di Giaccherini in ognuno di noi, è veramente è quel lato nascosto, sorprendente del talento, della qualità di qualsiasi persona che in certi momenti può venire fuori. Vabbè, io penso veramente che Giaccherini sia la dimostrazione più plastica del fatto che bisogna credere, che sicuramente c'è una parte sconosciuta e nascosta delle qualità di qualsiasi persona in qualsiasi ambito che può veramente venire fuori se trova la giusta motivazione e il giusto momento anche dal punto di vista fisico. Quindi veramente secondo me supera il campo di calcio. Poi De Sciglio ha fatto una grande partita, e poi direi tutto il reparto difensivo, che però insomma Barzagli è un eroe della patria, quindi insomma un errore glielo possiamo anche concedere, tanto poi c'era il santo lì in porta, sì, e ha risolto, sì, lui. Sì, sì. Brexit 2, altro argomento, vi faccio sentire Marino e Pierluigi, tre audio. È tornato il gelido telecronista islandese. Aron lítur upp, það pláss fyrir Birkjum og Sævarsson út í hæra megin. Vindurinn tekur hann niður fyrir Jóa Berg sem að er gegn Danny Rose og Jói sem er settur að Gylfa. Gylfi í fyrsta, Jóntaði og Kolbeinn, Veska! Við erum komnir yfir hér í Nýs. Kolbeinn Sigtosson með fyrsta marki. Questo è il racconto del secondo gol dell'Islanda contro l'Inghilterra, quello del definitivo 2-1. Poi è già un cult il festeggiamento degli islandesi sotto il loro spicchio di curva. Infine, l'eliminazione dell'Inghilterra dai gallesi è stata accolta così, non esattamente un Regno Unito, in questo momento. Questo è il ritiro del Galles, sono i giocatori, non sono i tifosi per la strada per le strade di Cardiff. Allora, Marino Bartoletti, il flop del secolo, quello inglese. Dicevo prima, Brexit 2, in pochi giorni fuori due volte. Coerenti, eh? Allora, non si può dire che questi europei ci annoiano, sinceramente. A questo punto non mi ricordo neanche più qual è la parte difficile del tabellone sulla quale abbiamo discusso praticamente per due settimane. Sì. Non posso neanche negare che la cosa mi fa godicchiare un pochino, sì, per tanti motivi, non esattamente tutti calcistici, ma soprattutto Pierre, soprattutto Carlo, lasciami gioire per quello che sta facendo l'Islanda. Io sto ascoltando i Sigur Rós da ieri sera, anche se il nuovo divo dello spettacolo islandese sicuramente quell'anonimo telecronista che avrà un nome ma che vi vanto di non conoscere, che mi sta divertendo molto. In quanto all'esultanza degli islandesi, scusa se vado fuori tema rispetto all'Inghilterra, beh, insomma, io parlo di quella degli islandesi, siamo a livelli della H praticamente. Siamo a quelli di guarda, una H dei Noantri, però è molto bello. oggi abbiamo fatto una, diciamo, sai, quelle cose di motivazione aziendale per un'azienda con un po' di esempi del calcio, e abbiamo preso un'immagine ieri, perché è veramente, oltre a essere molto attuale, in quel battito ritmato fra giocatori e tifosi c'è l'essenza di qualsiasi lavoro di squadra, cioè, esattamente perché c'è il momento nel quale l'individuo con il suo carico di speranze, di sogni, di ambizioni si perde quasi, no? si scioglie nell'interesse collettivo della squadra, e quel battito ritmato fra giocatori e tifosi c'è l'essenza dello sport di squadra, e quindi c'è l'essenza dell'azienda, dell'amicizia, della famiglia, del gruppo, tutte le cose stupende che ci possono essere nella testa delle persone nel momento nel quale smettono di pensare solo individualmente e pensano di squadra. Che ti devo dire, siamo tutti islandesi, D'altra parte si conoscono uno con l'altro. Fratelli d'Islanda, l'Islanda si è destra, Tu quale sceneggiatore drogato avrebbe potuto pensare una parte destra del tabellone con sopra Germania, Italia e sotto Francia, Islanda? No, senza dimenticare che l'Islanda ha fatto fuori l'Olanda nelle eliminatorie, quindi insomma è una realtà incredibile, ma è una realtà, un paese di 329.000 abitanti, se non ricordo male, una cittadina, praticamente si conoscono uno con l'altro, Lineker era detto, abbiamo perso contro una squadra che ha più vulcani che calciatori professionisti. Voto. Lineker che tra l'altro sta facendo, tra l'altro, la sta toccando pianissimo su Parage, che continua a insultare in ogni tweet. Devo dire che da questo punto di vista, insomma, si può essere d'accordo o no con l'idea di Lineker, per carità, ma insomma non gli difetta certamente il coraggio, e sta prendendo delle posizioni veramente clamorosamente forti. Ripeto, poi ovviamente il referendum, il popolo è sovrano e quel voto lì va rispettato, ma Lineker è veramente, da questo punto di vista, un esempio, diciamo, di coraggio, perché ha delle idee e le esprime col massimo, insomma, della forza, della chiarezza, della chiarezza. Anche sottolineare da musicologo quella bellezza di solfeggio, di battere e levare, di quella che abbiamo chiamato la H dei Noantri. Sì. È una cosa meravigliosa, neanche uno che ha un metronomo potrebbe fare una cosa così. Verissimo. Impariamola. Si allena. Questa è veramente una delle ricchezze, dei valori aggiunti che ci sta dando questo europeo, oltre agli SMS che io e Carlo ci scambiamo quando i gallesi cantano l'inno nazionale. Come si fa a non amare l'Islanda? Infatti io ho un'idea su chi tiferò tra Galles e Belgio, ce l'ho già, come anche tu. Allora, siamo in parecchi Valentino Rossi e lo scivolone di Assen. Il fatto che avevo la gomma usata dai primi 12 giri non ha cambiato niente, è stato semplicemente un errore mio, che sono stato proprio un somaro, ecco, perché stavo andando troppo forte. Marino riesce a dare un voto basso a Rossi in questa occasione? No, non riesco, guarda, no. Non ci riesco se non altro per queste frasi. Fermo restando la mia solidarietà ai somari, che sono animali intelligentissimi e pieni d'orgoglio, che vanno assolutamente rivalutati, come sa il nostro amico Bruce Gin, che ne ha 62 in casa. Però anche questa dichiarazione, fatta in un momento in cui forse nel mondo del calcio pochi avrebbero avuto il coraggio di fare dichiarazioni, forse noi stessi se ci fossero girati gli zebedei in quel momento come giravano lui, e poi è venuto fuori un Valentino straordinariamente, non posso dire umile, però consapevole, realistico, divertente, simpatico anche in quel momento. Io gli do un voto alto, sai perché? Perché mentre lo scorso anno sembrava non fosse il favorito per il Mondiale, in qualche modo sembrava gestire a modo suo e con bravura gli errori degli altri, quest'anno secondo me è il più forte di tutti, porca miseria, sì. Al punto che gli errori li fa lui. Allora io continuo a dargli 8 perché ho molta fiducia in lui quest'anno. Per chiudere, Marino, non è un giudizio, non è un voto, è un ricordo. Tutto tranquillo, eh? Ma di che ti preoccupi? Di tutto. Ehi! Non lo ha fatto apposta. E invece l'ho fatto apposta. Io pure. Bud Spencer ha segnato un'epoca. Arino. Primo grande nuotatore di livello internazionale di questo paese, tutti l'hanno ricordato in questi giorni, qualcuno se lo ricordava anche prima, è stato nei poliziotti delle Fiamme Oro, anche questo pochi lo ricordano, io l'ho conosciuto personalmente, ricordo la sua stretta di mano, ne porta ancora i segni di vivibilità e di dolcezza. Grazie Marino, alla prossima, un abbraccio a tutti, ciao. Ciao Marino Bartoletti. Pierluigi Pardo, chi non ha visto un film con Bud Spencer e Tennessee? Altrimenti no, ci arrabbiamo, l'avrò visto, insomma. Guarda, la cosa secondo me più interessante di Bud Spencer è che chiaramente c'erano tante botte, no? Sì. Però non c'era mai violenza. Certo. E questo è un paradosso, e anzi quelle botte lì forse esorcizzavano la violenza, in qualche modo la rendevano ridicola, era una sorta di antidoto alla violenza vera e propria. Quindi questa era la cosa più, se vuoi, più sorprendente, no? Che erano film pieni di pugni, pieni di scazzottate, ma queste scazzottate in realtà erano comiche, erano ridicole, erano una sorta invece di manifesto della non violenza. Tanto è vero che l'abbiamo amato tutti, e ovviamente qualcuno era più appassionato, qualcuno era meno appassionato, però insomma credo che veramente fosse un personaggio di straordinario spessore, di straordinaria umanità, e insomma ce ne rendiamo conto in oggi, queste ore, no? Ci ripensiamo. È una sorta di rito collettivo che ci racconta il fatto che abbiamo vissuto insieme un pezzetto di strada con lui, e chiaramente ci fa male sapere che è scomparso. Pietro, buongiorno. Ciao, salve a tutti. Una piccola presa in giro per i conduttori. Sì. Volevo dire, vi ricordate quando proponevate Totti agli europei? Vi sembra possibile far fare il lavoro di Pelé o di Eder a Totti? Quindi un piccolo riconoscimento di mia colpa da parte vostra, e niente, questo. Io al contrario, detto questo, siccome sono onesto, ieri quando c'è stato quel calcio di punizione che poi ci ha portato sull'1-0, ho pensato, adesso avessimo Totti o Pirlo avremmo più possibilità di segnare. Poi in realtà abbiamo segnato anche con Chiellini di stinco, quindi va bene uguale. Ma comunque precisiamo, Pierluigi, nessuno avrebbe pensato a un Totti titolare in questa squadra, nessuno avrebbe pensato di far fare a Totti il lavoro di Pelé, poteva essere una sorta di capo spedizione o ovviamente un giocatore tattico. Sì, ma comunque io ricordo quello che diceva quel giorno lì, cioè che sicuramente Totti o Pirlo chiaramente ci avrebbe dato, a noi che guardiamo da fuori, no, un senso diverso, cioè il classico giocatore attorno al quale si aggrappano le speranze, le attenzioni anche mediatiche, e quindi ci avrebbe fatto piacere. Però insomma, poi alla fine, come va in campo, si va in 11 e non è neanche facilissimo fargli fare panchina, perché sono chiaramente delle leggende del calcio italiano, e credo che Conte abbia scelto bene per avere anche quel singolo cambio in più, che quel singolo posto in più che tu hai, può tornare utile. Stiamo vedendo che quasi tutti i giocatori sono impiegati, magari entrano per pochi minuti, ma sono, possono essere importanti. Sono tutti coinvolti, questo è un grande merito di Conte. Non c'è nessuno che è fuori dalle rotazioni, che non ha assaggiato il campo. Le geometrie sono variabili. E poi, ecco, appunto, prima parlavamo dei protagonisti, anche Eder, secondo me, sta facendo veramente molto, molto bene. Insomma, è una squadra che piano piano sta lievitando. Le certezze dietro stanno facendo quello che conoscevamo, e lì davanti, in mezzo al campo, stanno nascendo delle piccole gemme. Ripeto, Giaccherini è quello che mi colpisce di più di tutti, sì, perché ripeto, anche proprio dal punto di vista fisico, è proprio l'esempio di come in certe circostanze, in certe anche situazioni, quando non ne ha più va ad inseguire, esatto. Hai l'impressione che proprio non ne ha più, eppure prova ancora ad arrivare lì. Islanda come Leicester, quasi quasi 2 euro c'è di punto, scrive un ascoltatore. Beh, 2 euro se può fare. Sì, per certi versi Islanda meno dell'Leicester, perché meno dell'Leicester, questo va scritto a merito di Claudio Ranieri, l'impresa dell'Leicester. Comunque, se anche l'Islanda dovesse vincere l'europeo, sarebbe superiore, perché vincere sulle 38 partite, sulla regolarità di un campionato, è comunque più difficile che vincere una Champions o un europeo, che è una competizione breve, nella quale quindi è più facile che ci possa essere una serie, una combinazione di sorprese. Detto questo, insomma, siamo tutti islandesi. Io sono Pardoshon, tu sei Kentason, poi c'è Bartoletson, poi c'è De Lucasson, e quindi insomma siamo tutti. Insomma, andiamo a fare le vacanze a Reykjavik, ho capito. Mi porti a fare le vacanze a Reykjavik. Io l'ho già da prima, adesso questo punto magari sarà anche un boom turistico, insomma, però sì. Questo è veramente uno di quei casi dove secondo me anche gli economisti studieranno. Sicuramente ci sarà un effetto volano anche per l'economia, per il turismo, perché la ribalta internazionale di un paese, oltretutto con un'immagine così simpatica agli occhi di tutti, perché certo, tutti andiamo a tifare per le squadre deboli, no? Credo che sicuramente possa avere un impatto di turismo e di attenzione internazionale. Lo chiederemo a Barisoni e a Giannino. Francesco, buongiorno. Buongiorno, sono d'accordo su tutto quello che avete detto fino ad ora, e soprattutto su Conte. Io dico, tanto sono juventino, anche se non uno juventino così scalmanato, diciamo, moderato, ecco. E davvero, ora io vorrei mettere, ecco, la grinta di quella squadra nella nazione, la nostra nazione, e vedere le cose come cambierebbero, ecco quello che voglio dire. In questo ha ragione da vendere Francesco, abbiamo parlato anche prima con Crosetti. Alberto da Napoli, abbiamo ancora meno di un minuto, dica. Sì, buongiorno. Un'idea un po' folle sulla sostituzione eventuale di De Rossi, lo spostamento di Bonucci, come la vedete? Grazie. Alberto, folle, io credo. No, è folle, perché io sarei tra duplicazione di Bonucci, cioè Bonucci potrebbe tranquillamente giocare lì come caratteristiche, però poi una partita così non inventi una cosa dietro. Sì. Quindi diciamo in linea di principio non è sbagliato, cioè Bonucci potrebbe tranquillamente fare quel ruolo. Il problema è che poi chi fa Bonucci, cioè chi fa il difensore centrale, quindi io non penso che questa sarà la soluzione. Io continuo a pensare che De Rossi possa essere in campo, se è solo una botta in 5 giorni si assorbe. Ciao Pierluigi, sentiamo domani. Ciao amico mio, a domani con tutti convocati alle 14. Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bini in redazione. Ciao a tutti. Che spettacolo da